Al Mursalat. Le inviate. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wal mursalati urfa. Per le inviate in successione. Fal'asifati asfa. Per quelle che impetuose tempestano. Wan-nashirati nashra. Per quelle che si diffondono ampie. Fal-fariqati farqa. Per quelle che separano con esattezza. Fal-mulqiyati dhikra. E per quelle che lanciano un monito. Uzran aw nuzra. A guisa di scusa o di avvertimento. Innama tu'aduna lawaqi'. In verità, quello che vi è stato promesso avverrà. Fa'idhan nujumu tumisat. Quando le stelle perderanno la luce. Wa'idhas sama'u furijat. E si fenderà il cielo. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. E le montagne saranno disperse. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. E sarà indicato il momento ai messaggeri. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. A quale giorno saranno rinviati? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Al giorno della decisione. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Chi mai ti dirà cos'è il giorno della decisione? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. Già non facemmo perire gli antichi? Summa nutbi'uhumul akhirin. E non li facemmo seguire dagli ultimi? Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Così trattiamo i colpevoli. Wailun yawma idhin lil mukazzibin. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Non vi creammo da un liquido vile. Faja'alnahu fi qararin makin. Che depositammo in un sicuro ricettacolo. Ila qadarin ma'lum. Per un tempo stabilito. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Siamo noi che lo stabiliamo. Siamo i migliori nello stabilire tutte le cose. Wailun yawma idhin lil mukazzibin. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Alam naj'alil arda kifata. Non abbiamo fatto della terra un luogo di riunione. Ahya'an wa amwata. Dei vivi e dei morti. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Non vi ponemmo alte montagne? Non vi demmo da bere un'acqua dolce? Wailun yawma idhin lil mukazzibin. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Intaliquu إلى ما كنتم به تكذبون. Sarà detto ai miscredenti: andate verso quel che tacciavate di menzogna. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Andate verso un'ombra di tre colonne. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Che non ombreggia e non ripara dalla vampa infernale. إنها ترمي بشرر كالقصر. Che proietta scintille grandi come tronchi. كأنه جمالة صفر. Che sembrano in vero lastre di rame. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a quelli che tacciano di menzogna. هذا يوم لا ينطقون. Sarà il giorno in cui non potranno parlare. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. E non sarà dato loro il permesso di scusarsi. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. È il giorno della decisione, in cui riuniremo voi e gli antichi. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. Se possedete uno stratagemma, usatelo dunque contro di me. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. إن المتقين في ظلال وعيون. I timorati di Allah saranno tra ombre e sorgenti. وفواكه مما يشتهون. E frutti che brameranno. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Sarà detto loro: mangiate e bevete in pace, compenso per quello che avete fatto. إنا كذلك نجزي المحسنين. Compensiamo così coloro che compiono il bene. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. كلوا وتمتعوا. تعوا قليلا إنكم مجرمون. Sarà detto loro: mangiate e godete un poco voi che siete criminali. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Quando si dice loro inchinatevi, non si inchinano. ويل يومئذ للمكذبين. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. فبأي حديث بعده يؤمنون. A quale discorso mai crederanno dopo di ciò؟